e tu non puoi guardarla quando brilla. L'acqua della Tarfiume, c'è sta la stella. بتعز في الوطن من اجل دمك اخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمه تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومه على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي صاحب العرض الغربي فلسطين اتبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايت بعودتك مكون من جسد وتزوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المادة ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارضي تناديكم اناديكم اشدوا على مشيت على الايادي الايادي مساعد ما حم الموت ونابض بالصوت ورافض السكوت وصاحب عين الصوت ها اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف اضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامه بغفله تمل قدر بلحظه خرجت دموع بلحظه الشموع تتخطى الوداع هو الابقى اناديكم اشدوا على السلام والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب أحكي فيتوريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر سي فيتوريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة أحكي فيتوريو إحنا إلا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد أنت فلسطيني فيك أنت فلسطيني وأنا أناديكم أشدوا على أياديكم وأبوس الأرض E 11:54 minuti primi in ascolto dai microfoni di Radio Default andiamo in onda con una puntata speciale di Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento analisi sulla Palestina occupata e dalla Palestina occupata. Siamo oggi qui con Shad Abu Salama, autrice del blog Palestine From My Eyes, ora tradotto e pubblicato in italiano dalla Lo Russo Editore. Marhaba Shad. Merhaba, merhaba Emanuele. Thanks for having me. Just a moment. Okay. Don't use this mic. It doesn't function. Okay. We will use only that one. Grandi problemi tecnici, big technical problems for our radio. Ricordiamo subito i contatti della radio, www.radiodefault.it, dove potete trovare le nostre iniziative, il nostro palinsesto e ciò che fa questa radio. Ricordatevi che ci potete aggiungere su Skype radio.default per poter intervenire in diretta, mandare minacce, imprecazioni e via dicendo. E poi c'è la nostra pagina Facebook Radio Default, dove potrete essere aggiornati in tempo reale su ciò che avviene, su ciò che questa radio pubblica, manda in onda e su ciò che avviene nel mondo. e poi potete sempre venirci a trovare negli studios di Genzano di Roma a via Guidobaldi 56, dove potete conoscere la redazione e magari bervi una birretta e sostenere questa radio che non campa di aria ma campa delle sottoscrizioni di chi l'ascolta e di chi la vive. Quindi iniziamo con l'intervista con Shad. Ieri è stata una giornata molto importante, la giornata della Nakba, la catastrofe palestinese. E Shad, per te e per il popolo palestinese, cosa significa la Nakba e cosa è successo ieri in Palestina per ricordare la Nakba? I arrived in Italy yesterday, which marks it was May 15th, which marks the 66th anniversary of Nakba Day. Nakba is the darkest period of the history of Palestine, which our people continue to suffer its consequences until now. During Nakba, the Zionist gangs collaborated with the British occupation of that era, attacked our Palestinian people, and they expelled around 800,000 Palestinians from their homeland, from nearly 513 villages, to make a room for the Zionist entity to exist. Sì, ieri ero a Roma in Italia per il 15 di maggio che segna il 66° anniversario della Nakba, che è il periodo più oscuro della storia palestinese, periodo in cui le bande sioniste hanno espulso dalla Palestina, in collaborazione con le autorità mandatarie britanniche, 800.000 palestinesi, distruggendo 530 villaggi della Palestina storica. Ed è un periodo oscuro che dura ancora oggi. The displacement, the expulsion and the ethnic cleansing of the Palestinian people and their dispossession and the massacres that happened atrociously in different parts of Palestine, like Deir Yassin massacre, which we refer to as Nakba, Israel refers to as the War of Independence, and there is nothing more inhumane than that. It is clear, and it is every blind can see that Israel existed on the ruins and the blood of the oppressed people of Palestine. Sì, l'espulsione, la pulizia etnica e di massacri che ci sono stati in tutta la Palestina e che noi chiamiamo Nakba, ad esempio il massacro di Deir Yassin, da Israele viene chiamata la guerra di indipendenza, indipendenza che è stata ottenuta sul sangue e le sofferenze della popolazione palestinese. As a Palestinian people, now we 2/3 of the Palestinian people are refugees scattered all around the world, within Palestine and in diaspora. And every year, every anniversary of Nakba, we launch and renew our call and our demand of return, because we will never forget our homelands, and we will always embrace our right to return and call for the freedom of Palestine from the river to the sea, until freedom, equality, justice and return to the Palestinian people happen. Come popolo palestinese siamo diventati profughi e ci siamo dispersi in tutto il mondo, sia dentro la Palestina che in diaspora. E ogni anno noi rinnoviamo il nostro appello al diritto al ritorno, un diritto al ritorno in tutta la Palestina, dal fiume Giordano fino al Mar Mediterraneo, e rinnoviamo il nostro appello per la giustizia, per il ritorno, la giustizia e l'uguaglianza in quella che era tutto, che è il terreno di Palestina. I am originally a refugee. I come originally from Beit Jirja, a village in what is called now Israel. My grandparents were expelled from there along with around 800,000 Palestinians. And since then I'm living in Jabalia camp, Jabalia refugee camp in the north the Gaza Strip. This situation is very difficult for the Palestinian people. The refugees everywhere in all Palestinian refugee camps in Palestine, in Jordan, in Syria, in Lebanon, they are suffering inhumane conditions, and this just so shows that Nakba continues in many different forms under the ongoing existence and the ongoing occupation of Israel. Sì, io vengo da which is the name of your village? Beit Jirja. Beit Jirja, un villaggio in quella che nella cosiddetta che ora sta nella cosiddetta Israele, e i miei nonni vennero espulsi come altri 800.000 palestinesi. E da allora siamo vissuti nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza. Questa è una situazione molto difficile per i palestinesi che vivono nei campi profughi all'interno della Palestina, ma anche in Siria, Libano e Giordania, e che dimostra che e queste sofferenze continuano ancora oggigiorno a causa dell'occupazione che è ancora in corso da parte di Israele, dell'occupazione inumana ancora in corso da parte della cosiddetta Israele. Yesterday was my first book presentation. I came to Italy to present my book Palestine from My Eyes, which is the translation of my blog in Italian language. Shortly before my presentation started, I learned that two Palestinian people were shot dead in a demonstration. One of them is 22 years old. His name is Muhammad At-Tahir, and the other is 17 years old, and his name is Nadim Nouara. It was very aching to go to the presentation, knowing that this atrocious and terrible, brutal murder happened, and these clashes were happening against our Palestinian people who were just demonstrating in commemoration of the 66th anniversary and in support of the ongoing hunger strike of our administrative detainees in front of Aufar prison. So I went there with Ieri c'è stata la prima presentazione del mio libro Palestine from My Eyes, che è la traduzione in italiano del mio blog. Poco prima di andare alla presentazione ho scoperto che due palestinesi sono stati uccisi durante una dimostrazione, durante una manifestazione in West Bank. Un ragazzo di 22 anni, Muhammad Al-Tahir, e un ragazzo di 17 anni, Nadim Nouara. Per me è stato molto doloroso andare alla manifestazione, sapendo che erano questi due omicidi sono avvenuti contro dei membri del popolo palestinese che erano lì per manifestare, per ricordare il 66° anniversario della Nakba e che stavano anche manifestando il loro sostegno allo sciopero della fame dei detenuti in detenzione amministrativa. Infatti la manifestazione si è tenuta davanti al carcere di Ofer. The murder of these two Palestinians came as a reminder that Nakba is not just one event, but it is continuing in many forms and brutal and different forms. It comes as a reminder for us that all that we are enduring from oppression and injustices as a Palestinian people are not but a consequence of the creation of Zionist Israel. It also tells everyone who refer to the Palestinian cause, those who refer the Palestinian cause to 1967, that our cause goes back to 1948. Sì, l'omicidio di questi due palestinesi ci ricorda che la Nakba ancora continua nelle sue forme inumane e brutali. E che continua anche la resistenza del popolo palestinese e questo ci ricorda anche che la lotta palestinese non viene datata al 1967 ma inizia e risale al 1948. I explain a little bit. Nel 1967 venne ci fu la cosiddetta Naxa, cioè l'occupazione da parte dell'entità sionista della West Bank, la Cisgiordania e la striscia di Gaza. And since we're talking about 1967 and 1948, if all solidarity activists should remember that a genuine support of the justice of the Palestinian people should never take the cause back to 1967 because in this way they are legitimizing the creation of Israel on the ruins of our villages and the blood of our martyrs. They are ignoring the source of the problem, which is Israel and Zionism. They are ignoring the legitimate right of return of two-thirds of the Palestinian people who make now millions of refugees who are scattered within Palestine and in diaspora. Sì, e visto che appunto stiamo parlando del 1948 e del 1967, gli attivisti internazionalisti che agiscono in solidarietà con il popolo palestinese dovrebbero ricordare che l'occupazione inizia nel 48 e che non ricordarlo significa legittimare l'entità sionista e dimenticare il sangue e i martiri palestinesi che sono avvenuti durante quel periodo. Facendo risalire l'occupazione al 1967, ignorano un aspetto fondamentale del problema, che è quello della fondazione dello Stato di Israele, perché riconoscere lo Stato di Israele significa negare il diritto al ritorno per due terzi dei palestinesi, che oggi costituiscono milioni di persone in tutto il mondo, in Palestina ed in diaspora. Whenever another Palestinian fall victim under the Israeli occupation, or whenever anyone is killed by the Israeli occupation forces, I remind myself of a very inspiring quotation said by Ghassan Kanafani. It says, "The cause doesn't belong to those who died, but it is the responsibility of those who are still alive." And we should all keep this in our mind. For all people of conscience, it is your cause to stand with the oppressed. E ogni volta che un palestinese viene ucciso dalle forze di occupazione israeliane, Io cerco di ricordare una citazione di Gassan Canafani che dice che la causa non appartiene a coloro che sono morti, ma a coloro che sono vivi. E noi dovremmo sempre ricordarci questa frase di Canafani. Ogni persona dotata di una coscienza, per ogni persona dotata di una coscienza, si dovrebbe porre il problema di sostenere coloro che sono oppressi. Ok, volevamo fare un'altra domanda. Tu 4 anni fa hai aperto un blog, palestinefrommyeyes.wordpress.com. Perché hai iniziato a utilizzare questo media, questa piattaforma, il blog, questo tipo di media? Come scrivi i tuoi articoli? Con che criterio scrivi i tuoi articoli? So I started blogging soon after the 3 weeks offensive on Palestine in 2008-2009. At that time, I was in the Gaza Strip, like all the other 1,800,000 Palestinian people who are living under the siege of the Gaza Strip, living under continuous bombing, continuous killing, mass killing of the Palestinian people. At that time, around 1,500 Palestinian people were killed. Thousands, 1,500 were killed, along with thousands of injured, and thousands of places were demolished. It was crazy period. It was crazy attack that has nothing to do with humanity. And lots of crimes against the humanity, and the whole world was watching us being massacred and dehumanized, and living under continuous power cut in darkness. We were isolated from the whole world, and no one at that time had any sense of security. Everyone expected himself or anyone of his relatives to be killed. Any moment. Sì, ho iniziato dopo l'offensiva contro la Palestina del 2008-del 2009, quella che noi chiamiamo Operazione Piombo Fuso, e all'epoca vivevo a Gaza con insieme a un altro 1.700.000 palestinesi sottoposti continuamente a continui bombardamenti che hanno portato a 1.500 morti, migliaia di feriti e alla demolizione di moltissimi edifici. È stato un periodo totalmente privo di umanità in cui tutto il mondo stava a guardare, in cui appunto, oltre ai continui bombardamenti, si alternavano anche tagli dell'elettricità e via dicendo. E in qualsiasi momento ci si aspettava di poter essere uccisi. We were just civilians, civilians being killed. Now Israel is trying to portray that the Gaza Strip is Hamas, when it is not the case. They are trying to say that we're killing terrorists or whatever. They're trying to manipulate the international community with wrong narrative to justify their crimes against the humanity. And we were watching this while we were isolated, left alone. So that made me decide to bring some a narrative from inside Palestine to communicate with the world and translate the suffering of our people and defy this Israeli narrative. Sì, eravamo soltanto civili che venivano uccisi e Israele. Nel frattempo Israele affermava che Gaza, tutta Gaza, era Hamas. ma non era vero, appunto, loro colpivano i civili e questa, questa loro giustificazione per cui le loro azioni militari servivano ad eliminare il terrorismo, in realtà erano appunto solo delle giustificazioni per coprire i propri crimini contro l'umanità. E questo invece, appunto, noi siamo stati lasciati soli ad affrontare tutto questo i miei scritti vogliono servire apposta per distruggere questa narrazione israeliana e per ricordare che eravamo soltanto dei civili, che eravamo e che siamo soltanto dei civili. So that made me start my blog Palestine from my eyes, to tell the world about Palestine from my eyes. At that time I couldn't endure. I felt a desire to express myself and to communicate with the world and overcome the feeling of isolation that we felt under that inhumane attack. We wanted to defy the Israeli narrative that misleads the reality for Palestinians by inverting the role of the oppressor and the victim. I wanted to fight the ignorance that dehumanized me and the Palestinian people and led so many to watch us idly by without doing anything while we were being massacred, humiliated, violated, detained, besieged and deprived our very basic rights as humans. Veniamo ora appunto al mio blog, a cosa significa Palestine from my eyes, la Palestina dai miei occhi. Era di fatto una piattaforma che mi serviva a non deumanizzare me stessa e soprattutto era uno strumento che mi serviva per invertire, per combattere questa narrazione israeliana che israeliana e dei media che manipolano la verità invertendo il ruolo dell'oppressore e della vittima e per combattere questa ignoranza mediatica che punta a deumanizzare sia me stessa che il popolo palestinese. Yes, so I used to write stories. I wrote stories from our daily life, my personal stories that reflect the collective suffering. The personal story is important, but it just gives one side of what the Palestinian people are enduring under the occupation as collective. Sì, cerco. Io scrivo storie di vita quotidiana e storie personali che però riflettono le storie di una pluralità di palestinesi, non solo la mia, e le mie storie personali i miei eventi personali non sono nulla, ma sono parte di una situazione complessiva che riguarda il popolo palestinese. I used the media, the social media and the internet, because it was the our only means of freedom, you can say. Like we were anxiously waiting for power cuts to go, so we can make use of internet to communicate with the world and let our voice be heard in any means possible, in writing, drawings, and I used to use any means of expression to communicate and let the voice of the oppressed be reached. Ho utilizzato il web, internet, i social media perché è l'unico mezzo di libertà. a causa dei tagli dell'energia e via dicendo, e della comunicazione. Questo è il nostro mezzo per comunicare con il mondo e per far sentire la nostra voce. E noi cerchiamo di utilizzare degli scritti, dei disegni e appunto vari strumenti per cercare appunto di far udire al mondo ciò che noi vogliamo dire. And apart from daily life stories, I wrote about the Palestinian political prisoners. The Palestinian political prisoners' cause was not just a political or a national cause for me as a Palestinian. It was actually also personal, because I'm a daughter of the of a Palestinian ex-detainee, and this has contributed a lot of shaping my character as growing while listening to my father's stories of his experience in Israeli jails. E a parte le mie storie di vita quotidiana, io parlo anche della lotta dei prigionieri politici palestinesi. La lotta in sostegno dei prigionieri politici palestinesi non è una causa che io abbraccio solamente in quanto membro del popolo palestinese, ma per me è anche un fatto estremamente personale. Sono figlia di un ex prigioniero politico e la prigionia di mio padre è servita molto a temperare il mio carattere, perché sono cresciuta ascoltando le sue storie, sulle sue storie di prigionia all'interno delle carceri sioniste. And I saw how the international media represented or portrayed the Palestinian political prisoners as terrorists, when they are just freedom fighters. They are people who are thirsty for freedom, for justice, and they decided to take on their shoulder the fight for justice. And that's why I felt that they deserve from us and from the Palestinian people and international people more focus, because their cause is forgotten, and they are now continue to live under slow death sentence in what my father calls the graves for living. Ho visto come i media internazionali ritraggono i prigionieri politici palestinesi e ovviamente li ritraggono, li descrivono come dei terroristi, ma non sono dei terroristi, sono dei combattenti per la libertà, sono persone assetate di libertà che hanno deciso di caricare sulle proprie spalle l'onere della lotta. Ed è per questo che io spingo tutti gli attivisti a porre maggiore attenzione sulla lotta dei detenuti politici, perché i detenuti politici attualmente stanno affrontando una lenta pena di morte, e quella che mio padre descrive come la prigionia, mio padre ha descritto la prigionia come un cimitero per i vivi. The international media continues to portray the Palestinian political prisoners as just statistics or numbers, when they are not statistics and numbers. I refuse to support this direction of portraying them as statistics or numbers. They are humans. They are every one of them has a human story that needs to be listened and needs to be documented. They are suffering all kinds of brutality in the Israeli prison service. They are suffering medical neglect, family disconnections under the ban on family visits. They are living in a slow death sentence, and continuing their struggle in different ways with determination and they feel, because they believe in their just cause and their and in the justice of the Palestinian people, they believe that their determination and resilience is stronger than the well-armed Israeli soldiers. E i media internazionali ancora continuano a descrivere i prigionieri come la questione dei prigionieri con delle statistiche come numeri, ma io personalmente mi rifiuto di utilizzare questo metodo di descrizione. I prigionieri non sono né statistiche né dei numeri, bensì sono degli esseri umani con delle storie personali che devono essere conosciute come storie personali e come storie umane. Storie che vedono, ad esempio, della negligenza medica, cioè la negazione delle cure la negazione dei colloqui con le proprie famiglie ed altre vessazioni perpetrate dal sistema carcerario israeliano. E malgrado questo, prigionieri palestinesi continuano a credere nella giustezza della propria causa e continuano a credere che ci debba essere una giustizia per il popolo palestinese. At the moment, there are about 5,500 Palestinian political prisoners in Israeli jails, living in brutal conditions, barely enjoying any of their basic rights that is guaranteed by international conventions. And now there are a revolution of hunger strike that our administrative detainees are launching against the unjust policies of the Israeli prison service. They are protesting with hunger, with their empty stomachs, against the administrative detention policy which Israel uses to hold detainees without trial and without any charge. Sì, attualmente ci sono circa 5.000 prigionieri palestinesi che vivono in delle condizioni veramente brutali e contro ogni normativa e convenzione internazionale. E sempre in questo momento nelle carceri sioniste si sta avviando una rivoluzione, uno sciopero della fame dei detenuti in detenzione amministrativa che con i loro stomaci vuoti vogliono protestare contro questa pratica giuridica che li porta ad essere imprigionati senza alcun processo. They reached the 23rd day of hunger strike, and they are determined, and they are insisting that they will not break their hunger strike until their demands are met. Their demands, they are just calling for a fair trial and an end to this unjust policy of administrative detention. As I said, Israel holds them without trial and without any charge, and based on secret information that neither the lawyer nor the detainee himself has access to. And this is obviously very, very unjust and very inhumane. And we should all stand together and in support of the just revolution of the Palestinian administrative detention. Sì, attualmente sono al 23° giorno di sciopero della fame e sono determinati a continuare fino a che non verranno soddisfatte le loro richieste, che in questo caso si tratta di un processo equo e della fine della pratica della detenzione amministrativa, che attualmente permette al sistema giudiziario israeliano di carcerare i palestinesi solo sulla base di un sospetto e in base a documenti segreti che non vengono resi noti né al detenuto né ai propri avvocati. E quindi tutti noi dovremmo sostenere questa rivoluzione portata, questa rivoluzione dello sciopero della fame portata avanti dai prigionieri politici in detenzione amministrativa. During this time, as I'm following the continuing open mass hunger strike in Israeli jails, my heart is aching because I know the struggle and the suffering that our Palestinian political prisoners are enduring under the oppressive Israeli prison service. Now, after 23 days of hunger strike, they barely have any energy to fight, but they continue with determination. Their only weapon is determination. And Israel feels as if threatened, and they're trying to break their determination by any brutal means. They are now pushing them into solitary confinement. They are denying them from lawyer visits, family visits. They are even confiscating their personal belongings, and they are denying them from access to salt, which is the only means for survival. Durante questa mobilitazione il mio cuore soffre pensando alle sofferenze che questi prigionieri in mobilitazione stanno subendo da parte del sistema carcerario israeliano. Dopo 23 giorni di sciopero della fame ormai hanno perso le energie fisiche e riescono a continuare soltanto grazie alla loro determinazione. Determinazione che Israele sta provando a rompere con vari metodi, utilizzando la detenzione in isolamento o negando i colloqui con le famiglie. E ad esempio confiscando gli oggetti personali che hanno dentro le celle o ad esempio negando ai prigionieri in sciopero della fame l'accesso al sale, che è uno strumento di base per la sopravvivenza. I explain the salt. Il sale, quando si è in sciopero della fame, di solito, appunto per avere un po' di energia e di avere un minimo apporto nutritivo, gli scioperanti si bevono dell'acqua salata, che appunto è ciò che gli permette di sopravvivere, e ovviamente ci dice Shad e ci dicono le cronache che il sistema carcerario dell'entità sionista sta negando anche l'accesso a questa forma di sostentamento di base. My father used to tell me a lot about hunger strike and how important is hunger strike for the Palestinian political detainees, because it is their only weapon to call for their justice and for their rights. When they launch hunger strike, they don't call for freedom, for release. They just call for their rights, their legitimate rights, like the right to go to have 1 hour break outside cell in 5 meters hole to walk and breathe air. The right to family visits, which resembles a lifeline for our Palestinian prisoners, the right to read, the right to education, the right not to be in solitary confinement, like legitimate rights, the right to be treated as a human in prison. They are calling for these normal, like simple things, which they are denied of under the Israeli occupation. Mio padre mi raccontava di quanto è importante per i prigionieri lo sciopero della fame, che per un prigioniero palestinese è l'unica arma a disposizione per far sentire la propria voce. I prigionieri non stanno chiedendo la libertà, ma chiedono che gli vengano accordati alcuni diritti, come ad esempio la possibilità di avere l'ora d'aria, i colloqui familiari, o ad esempio anche il diritto alla lettura, all'istruzione, e il diritto ad un giusto processo. E quindi stanno chiedendo di essere trattati in maniera umana e non come delle bestie. Il diritto appunto di essere visti come esseri umani. In 1982, my father was still in prison, and he was a participant of a mass hunger strike. It was at that time the longest hunger strike that the Palestinian prisoner movement has reached. It lasted for 33 days, and my father told me how they were oppressed in very violent ways. Like, for example, as an attempt to prick their determination and make them forcibly prick their hunger strike, they used to forcibly feed them through pipes that goes into their throats. And this was very dangerous, very, very dangerous, that actually led to the killing at that time in 1982. It led to the killing of 3 Palestinian detainees. Mio padre nel 1982, quando era ancora in prigione, ha partecipato al più lungo sciopero della fame del movimento dei prigionieri politici palestinesi, uno sciopero della fame che è durato 33 giorni e durante questo sciopero le forze di occupazione sioniste hanno provato in tanti modi a rompere la determinazione dei prigionieri palestinesi. Uno di questi modi è la nutrizione forzata, tramite cui appunto le forze di occupazione provavano a rompere la loro determinazione. Come? Infilando dei tubi nelle gole dei prigionieri e appunto inserendogli a forza il cibo. E questa è una pratica estremamente pericolosa che nello sciopero del 1982 ha portato alla morte di how many prisoners died in of di tre prigionieri. And now also in the ongoing hunger strike for the end of the administrative detention policy, they are forcibly fed, actually from the beginning of the hunger strike they didn't have access to salt, which is very important for their survival. And they are trying, the Israeli prison service is trying to oppress them in every way in order not for them to reach their demands. But and at this moment they depend on us and the support of the popular and the international support to strengthen their determination and continue their fight until their demands. So we shouldn't fail them, and we should do anything possible in support of their fight for their justice. E anche nello sciopero che è in corso in questo momento ci sono verificati casi di nutrizione forzata o anche, come ha già detto, il non permettergli di accedere al sale. E quindi il sistema carcerario sionista israeliano prova ad opprimerli in vari modi. E qual è l'unico sostegno che viene dai prigionieri? L'unico sostegno che viene ai prigionieri è quello del sostegno popolare ed internazionale alla loro lotta, fino a che non raggiungano la... fino a che non verranno, Israele non si convincerà a dover assecondare le loro giuste richieste. E quindi ora ci pigliamo un piccolo stacchetto musicale, questo è Marcel Khalifa che canta Wahana Hemshi. Thank you. E torniamo in onda con Radio Cufia, questa è la trasmissione di aggiornamento e analisi dalla Palestina occupata e sulla Palestina occupata. Siamo oggi, abbiamo un ospite di eccezione, Shad Abu Salama, blogger proveniente dalla Palestina, dalla striscia di Gaza, e che è qua in Italia per presentare il suo libro, edito dallo Russo Editore. Shad, la Palestina è stata uno storico campo di battaglia della sinistra rivoluzionaria italiana e le forme di attivismo sono mutate nel tempo. Oggi cosa pensi che dovrebbero fare gli attivisti internazionali che vogliono mostrare il loro supporto alla causa palestinese? E secondo te oggi la solidarietà al popolo palestinese deve essere espressa unicamente sul lato umanitario o è una forma di solidarietà maggiormente politica? Of course, the international solidarity movement is very important, and because of the growing solidarity we feel not isolated anymore. We feel supported, and we actually get more resilience from this support. It means a lot for us to see the world moving for the justice of Palestine and doing serious actions against the policies of their countries and against Israel and as an occupying regime, an apartheid regime. Sì, per noi è molto importante un movimento di solidarietà internazionale perché ci permette di non sentirci soli e ci aiuta molto vedere che in tutto il mondo la gente si impegna anche seriamente contro l'attuale occupazione sionista. Of course we should remember that the Palestinian cause is political. And the source of this ongoing injustice is the creation of the Zionist Israel. So we should defy Israel with political means. The international activists can support Palestinian people in their struggle more effectively in their homelands, with changing the policies of their countries. Now, since 2005, the Palestinian national associations made a call, an international call, upon the international community to join boycott, divestment, and sanctions campaign PDS to make Israel isolated and boycott it academically and economically and culturally until they comply with the international agreements and respect the human rights of the Palestinian people. Sì, dobbiamo ricordarci che la causa palestinese è, che è politica e che in quanto nasce e sorge con la nascita nel 1948 dell'Israele sionista. E quindi secondo me il metodo in cui gli attivisti internazionali possono aiutarci in modo migliore è quello di cambiare dall'interno in maniera efficace le politiche dei rispettivi paesi. Nel 2005 infatti c'è stata una campagna, cioè una serie di associazioni nazionali palestinesi ha fatto un appello internazionale per una campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele. La campagna BDS, che punti ad isolare a livello internazionale economicamente, sul piano accademico e dell'istruzione e culturale Israele, finché non soddisferà le richieste del diritto internazionale e finché non comincerà a trattare i palestinesi come degli esseri umani. So BDS, I think it is very, very effective in this matter, and it proved its effectiveness in the apartheid of South Africa. The international community supported the struggle against apartheid in South Africa and managed to reach reconciliation and solution for apartheid. Since the 90s, the South Africans and the black and the whites are living in equality. Kind of, let's say, at least they reached a solution for apartheid, and it proved its effectiveness that era, and it can actually does the same in Palestine, especially that those who experienced apartheid in South Africa came to Palestine and said that what is happening in Palestine is beyond apartheid, and it has nothing to do with normality and has no respect for human rights or whatsoever. Credo che il BDS, la campagna BDS, sia una campagna efficace e l'ha anche dimostrato nel caso della lotta contro l'apartheid in Sudafrica. A quell'epoca la comunità internazionale ha sostenuto il boicottaggio del Sudafrica e si è riusciti ad arrivare ad una riconciliazione. In Sudafrica i bianchi ed i neri vivono da eguali nel loro paese o in una sorta di uguaglianza. E ci arriva, quindi se ha funzionato all'epoca può funzionare anche oggi, ma soprattutto quello che ci dicono gli attivisti sudafricani che vengono in Palestina è che in Sudafrica, cioè in Palestina rispetto al Sudafrica, si è arrivati anche oltre l'apartheid. Of course, another thing that you can do other than BDS is that sharing the stories and spreading the stories of the oppressed people of Palestine make the voice of the oppressed more heard in your countries, because what part of why Israel continues to terrorize and oppress us is the silence and ignorance of the world and international community, and this gives Israel the impunity to cross all red lines and to continue its oppression and its crimes against humanity. With internet now, internet makes us all connected. You can have access to the writings of the Palestinian people. You can Skype them, listen to their stories and share. And even you can come to Palestine and listen to the people, spend with them a few weeks, and then go back to your countries and share your experience that you experienced and you witnessed yourself to your people. You can just even land to the airport of Tel Aviv and see the inhumane treatment that you get from the Israeli occupation just because you have few Palestinian Facebook friends or something like that. Many people, international people who came to Palestine just for a visit had this experience, and they even wrote about it and shared it with the whole audience. Sì, un'altra cosa che potete fare oltre alla campagna BDS è quella di condividere le storie personali di oppressione in Palestina, perché se Israele continua ancora oggi a perpetrare i propri crimini contro l'umanità è anche per l'incoscienza e l'ignoranza che gran parte del mondo ha riguardo questa situazione. Oggi con internet siamo tutti connessi ed è facile venire a conoscenza e poter condividere con i propri contatti le storie di oppressione in Palestina. Inoltre potete anche venire in Palestina e ascoltare dalla viva voce di chi le vive queste storie e vederle con i vostri occhi, trascorrendo qualche settimana in questa terra. Ma l'occupazione già si vede all'aeroporto di Tel Aviv, quando voi sbarcate appunto all'aeroporto di Tel Aviv si viene sottoposti a un interrogatorio e spesso si viene anche rimandati indietro per il solo fatto di avere su Facebook qualche amico palestinese. E queste sono fatti realmente accaduti, raccontati da attivisti internazionali che hanno subito queste storie. And we should make sure that in our reporting of what is going in Palestine, we should always try to encourage mobilization and actions, serious actions. We don't want solidarity in words. Words doesn't make anything, doesn't change the ongoing unjust situation and brutal conditions that we're enduring. Actions, serious actions, can help make this the struggle for freedom, justice, and equality shorter. You should call for boycotts, demonstrations, connecting to Palestine and challenging Israel legally and politically. And internet is a very effective tool that we can use to fight the international community ignorance. Oltretutto noi dobbiamo anche sostenere e promuovere delle azioni serie che vadano a sostenere il popolo palestinese, delle azioni che non devono limitarsi soltanto alle parole, perché le parole non aiutano a far terminare il trattamento inumano che Israele conduce contro i palestinesi. Delle azioni serie che vadano a rendere Israele responsabile, che mettano sotto processo e sotto accusa Israele per quello che compie ogni giorno in Palestina. E oggi internet ci aiuta a far circolare queste informazioni. In terms of the kind of solidarity that is needed, whether it is humanitarian or a political, you should remember that any humanitarian crisis that we are living as oppressed people is nothing but a consequence of a political reason that happened. It is nothing but a consequence of the ongoing occupation of Palestine and the ongoing injustice. You shouldn't ignore the fact that Israel has existed on the ruins of the Palestinian villages and the blood of our martyrs. You shouldn't ignore that Israel is continuing to expel the Palestinian people from their homelands, detain them, humiliate them psychologically and physically, abuse them, oppress them in every way. Now the Palestinian peoples, the Palestinian people who are living in Yarmouk and dying out of hunger under the siege, it is of course a humanitarian crisis, but it is not. It is nothing but a consequence of the creation of Israel. If they weren't expelled from their homeland and turned into refugees, they wouldn't be suffering this this brutal condition and slow death. Sì, sulla questione se la solidarietà deve essere umanitaria o politica, dobbiamo ricordare che ogni emergenza umanitaria che stiamo vivendo in Palestina non è altro che la conseguenza di un fatto politico, che è quella della creazione dello Stato di Israele, che ricordiamo è nato sulla pulizia etnica, sull'espulsione dei palestinesi e sul sangue e sui martiri palestinesi. E che quindi ogni crisi, ogni questione umanitaria che affrontiamo è diretta conseguenza di una questione politica. La brutalità le brutalità che ancora oggi le brutalità che i palestinesi subiscono non si sono fermate alla nascita dello Stato di Israele, ma continuano ancora oggi. Ancora oggi il popolo palestinese viene espulso dalle proprie terre e viene sottoposto a vessazioni. E anche i palestinesi che stanno vivendo a Yarmouk, nel campo profughi di Yarmouk in Siria, a Damasco, e che stanno subendo e che stanno morendo di fame a causa dell'assedio imposto sul campo, non sono altro che una conseguenza dell'occupazione. Se Israele non avesse occupato la Palestina nel 48, questi abitanti non sarebbero oggi dei profughi a Yarmouk e non starebbero soffrendo quello che oggi stanno, stanno soffrendo a causa dell'assedio e della fame. The siege of the Palestinian people in Lebanese refugee camps is also a consequence of the creation of Israel. The ongoing suffering and daily struggle of the Palestinian people who are living in the siege of the Gaza Strip is nothing but a consequence of the creation of Israel. So we shouldn't focus on the humanitarian side and ignore the political condition that was the main reason for what is what we are suffering in all aspects. Now we notice among the international solidarity a focus on the humanitarian crisis that the Palestinian people in general all over the globe within Palestine and diaspora are suffering. But I feel sorry to say that. I feel actually depressed and frustrated when I say this, and I consider this trading with the Palestinian cause. We shouldn't. I don't allow anyone to, whether Palestinian or international, to use the humanitarian side for like calling for AIDS or whatever. We don't want AIDS. We don't want a solution for the humanitarian crisis as much as we need a serious political solidarity from the international solidarity. L'assedio che stanno subendo i rifugiati, i profughi palestinesi in Libano, non è altro che una conseguenza dell'occupazione da parte di Israele. L'assedio che stanno subendo i palestinesi nella striscia di Gaza non è che un'altra conseguenza dell'occupazione portata avanti da Israele. Quindi concentrarsi sull'aspetto umanitario della situazione palestinese non può far altro che portare a canalizzare le energie nella direzione sbagliata, che invece è quella maggiormente politica. Noto che tra gli attivisti internazionali sta prendendo sempre più piede questo concentrarsi sull'aiuto umanitario, sull'aspetto umanitario della solidarietà ai palestinesi, sia dentro la Palestina che nella diaspora. E ciò mi rende frustrata, perché sembra quasi che non che stiano svendendo la causa palestinese. Noi non abbiamo bisogno di un aiuto umanitario, ma abbiamo bisogno di un aiuto prettamente politico. Ok, Shad. Stata insomma abbastanza chiara. Volevamo farti un'ultima domanda. C'è stata un mese fa Hamas e Fatah, i due principali partiti politici palestinesi, hanno siglato l'ennesimo accordo di riconciliazione. Quello prima era stato siglato nel 2011. Pare che questa volta si raggiunga questa riconciliazione. Cosa pensi di questo accordo? Secondo te può essere utile, può portare a un nuovo percorso o una nuova strategia di resistenza del popolo palestinese? E soprattutto, citando uno scritto di il professor Haidar Haid dell'Università Al-Quds di Gaza, che scriveva che bisogna andare oltre Oslo. Secondo te è possibile con questo accordo di riconciliazione riuscire appunto ad andare oltre Oslo e arrivare a un movimento più complessivo di resistenza all'interno della popolazione palestinese? Of course, the division between Palestinian factions was very depressing for the Palestinian people, and it was never like something that that existed between us. We've been always united, hand in hand, all of us, women and men. No matter what which party we are affiliated with, we were united against our only enemy, which is Israel. The division is nothing but a service. We know it. We know it that it is nothing but a service, a free service to Israel, because Israel is the only beneficiary of this division. But division, we should remember that it didn't start in 2006 when Hamas came to election. It started back in 1993 when the Palestinian Authority decided to sign the Oslo Accords with the Israeli entity under American mediation. Since that time, there has been division that could be seen in the Palestinian society, and it just reached its top in 2006 when Hamas won the elections. La divisione tra fazioni è sicuramente negativa per il popolo palestinese, che dovrebbe essere unito in tutte le sue componenti, e uomini e donne e tra fazioni, contro l'unico nemico che è l'occupazione sionista. Infatti la divisione non è altro che un servizio gratuito che si sta fornendo ad Israele, che che evidentemente tutti sanno in tra i palestinesi che è l'unico beneficiario di questa situazione. Però la divisione non è iniziata nel 2006, quando Hamas ha vinto le elezioni legislative nel Consiglio legislativo palestinese, ma nasce nel 1993, quando l'Autorità Nazionale Palestinese ha siglato gli accordi di Oslo con l'entità israeliana sotto la mediazione statunitense. È lì che è nata sostanzialmente la divisione. And since the division that became seriously a problem since 2006, we were trying to do popular movements against the division and to call for unity, because of course that was very depressing for us, and we knew that in our unity we are stronger, and we in our unity we can defy the Israeli occupation, and we used to hear about reconciliation in our in the speeches of our Palestinian leadership, but we never saw something serious happening on the ground, and we became like hearing words like reconciliation started these words lost its meanings actually for us, because we didn't feel that there was serious move toward reconciliation. When this finally happened, actually, there were people who were hopeful, who were optimistic with this reconciliation, but actually the majority didn't feel that this was the reconciliation that we aimed for. We don't want a reconciliation that continues the negotiations and what is the so-called peace process with Israel. For us, the majority of the Palestinian people in Palestine and in diaspora believe that negotiations with the Israeli occupation is another word for concessions. And Edward Said, since the 90s, has been warning the Palestinian Authority that what is more important than having a state is the kind of state that we call for. Negotiations are stopping the negotiation is better than endless concessions that simply prolong our struggle against Israeli occupation. E quindi dal 2006, dalla divisione che poi è avvenuta nel 2006, noi abbiamo provato a creare un movimento popolare che sostenesse l'unità del popolo palestinese e combattesse la divisione, perché è solo se siamo tutti uniti, che è solo con l'unità che possiamo sconfiggere il nostro nemico, che è l'occupazione israeliana. Attualmente i leader parlano di riconciliazione, hanno siglato degli accordi, ma senza poi creare dei fatti sul campo, e ciò ci ha portato a ritenere il termine riconciliazione come una parola vuota, con poca efficacia. Attualmente in Palestina qualcuno è favorevole, vede in maniera favorevole questo accordo di riconciliazione che è stato siglato, ma noi vogliamo capire che tipo di riconciliazione si va a creare con questo accordo, perché la maggioranza dei palestinesi non vuole una riconciliazione che un'unità palestinese che poi vada a continuare i colloqui diplomatici con l'Israele sionista, che poi colloqui che poi significa nient'altro che concessioni all'occupazione. che cioè, Shad ha citato una citazione di il famoso intellettuale palestinese Edward Said, che dice che dovremmo sempre ricordare che non è tanto importante avere uno Stato, ma bisogna capire prima quale tipo di Stato si vuole. E dovremmo insistere anche sul fatto che nessuna negoziazione è molto meglio che fare infinite concessioni che portano semplicemente al prolungamento dell'occupazione israeliana. Therefore, we need unity. The unity is a must for people who are oppressed. But the unity that we need is should be in a unified national program for liberation, because our fight has never been about independence or a state or some luxury or some privileges or a travel document or embassies all over the world. It has never been about this. It has been about liberation and justice. It has been about the return of the Palestinian refugees to their homelands. So we should never be engaged in anything that continues what Oslo Accords or the peace process started for. The peace that Israel wants is the continuing of the expansion of the settlements, is the continuing of the ethnic cleansing of the Palestinian people. Israel, obviously isn't interested in any peace. And now we only need for resistance in whatever mean that is possible. E noi abbiamo bisogno di un'unità che porti a una resistenza, a una vasta resistenza, perché la nostra non è una lotta per avere delle ambasciate, dei privilegi, dei documenti, dei passaporti, ma è una lotta per la giustizia e per il diritto al ritorno dei profughi palestinesi all'interno della Palestina storica. E quindi noi non vogliamo una riunificazione che punti a continuare questi colloqui diplomatici e che parlino di pace, perché la pace che vuole Israele è l'espansione delle colonie e il proseguio dell'occupazione. Quello che a noi ci serve è continuare la resistenza con ogni mezzo possibile. So in order to return the Palestinian cause and the Palestinian fight to the right spot, I believe that our Palestinian factions should return back to 1993 and no longer accept Oslo Accords or any negotiations with Israel until they how can they want us to recognize them as a state when they existed on the blood of our people and the continuing suffering of our oppressed people. How can we accept them when they are having no respect whatsoever for any of our human rights? E quindi per far tornare la lotta di liberazione ai propri principi, ai propri giusti principi e sulla retta via, tutte le fazioni palestinesi dovrebbero ritornare al 1993, tornare indietro nel tempo al 1993 e rifiutare gli accordi di Oslo, perché lo Stato che Israele vuole riconoscere non è lo Stato di Palestina, ma ma che prevederebbe l'esistenza di uno Stato di Israele che si basa sul sangue e sull'oppressione del popolo palestinese, e che soprattutto uno Stato che non vede i palestinesi come degli esseri umani. We want very simply our Palestinian struggle has been about liberation, has been about justice, has been about the return of the Palestinian refugees to their homeland, and we will accept no solution that doesn't put in consideration the right to self-determination, which comes first by the return of the Palestinian people and equal rights for all the inhabitants of Palestine, of historical Palestine. Yes, there is no difference between a Jew and a Palestinian. There is no difference, and we should all call for a solution that guarantees equal rights and freedom and justice for the Palestinian people and return to the Palestinian people to their homeland. E semplicemente la lotta palestinese deve puntare alla giustizia e al diritto a ritorno, appunto, quindi parlare di diritto a ritorno per i profughi palestinesi, e che non ci sono sostanzialmente differenze tra ebrei e palestinesi, ma si deve... no, scusa, ho sbagliato traduzione un attimino, ho sbagliato gli appunti, rewind, cioè, semplicemente la lotta palestinese deve essere per la giustizia e per il diritto al ritorno, e soprattutto deve parlare di diritto all'autodeterminazione dei palestinesi nella Palestina, nel territorio di Palestina, perché non ci sono differenze tra ebrei e palestinesi, e quindi si può trovare una soluzione che possa prevedere l'eguaglianza e appunto il diritto al ritorno dei profughi palestinesi in tutta la terra di Palestina. So the state that I imagine is now is not a state that doesn't put the right of the Palestinian people to return to their homeland in consideration. The state that I imagine after all these sacrifices and all this struggle for freedom is a one state, a secular state for all people, regardless of religion, race or what whatsoever. The one state solution, I think, it's the only solution through which the Palestinian rights called for by the Palestinian the boycott, divestment and sanction movement can be achieved. Moreover, I think the one state solution is a very generous compromise from the oppressed colonized to the settler colonialists, and we don't. This doesn't mean that we want to kick the Jews to the sea, as they say, out of insecurity. We are offering a citizenship in a state with total equality, exactly like what happened in South Africa, where white settlers were offered the same generous compromise by the indigenous population. Sì, l'idea di Stato che Shad immagina dopo tanti sacrifici e dopo tanto sangue versato dalla resistenza palestinese è uno Stato unico, laico, e uno Stato per tutti i suoi cittadini che non tenga conto della religione, della razza o di qualsiasi altra voglia di visione. La soluzione dello Stato unico è l'unica soluzione attraverso il quale si possano ottenere quei diritti palestinesi per cui Per cui a cui fa appello la campagna BDS, il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. E non è solo questo, però, è anche un compromesso molto generoso che le popolazioni oppresse e colonizzate fanno ai colonialisti. Questo perché i palestinesi non vogliono buttare gli ebrei a mare e stanno offrendo una cittadinanza in uno stato che preveda la totale uguaglianza, esattamente come è avvenuto in Sudafrica, dove ai coloni bianchi è stata fatta la stessa offerta generosa dalla popolazione indigena. As an end to this radio interview, I would like to just remind the international community that the Palestinian fight is not just a Palestinian, it is a concern, must be a concern of every human being, of every human of conscience, and we should all be together hand in hand until the freedom of Palestine, until the Palestinian people get their demands and achieve their justice. Si vuole approfittare di questa intervista radiofonica per ricordare che alla comunità internazionale che la lotta dei palestinesi è una lotta per ottenere la giustizia. E noi ringraziamo Shad, mandiamo. Prego. E ha già imparato l'italiano. Noi mandiamo un brevissimo stacchetto musicale. Questa è Ziad Rahbani con la voce di sua mamma Fairuz. Qua mi sto ammazzando. E ci sentiamo fra qualche minuto. وقمح E con il sottofondo di Siad Rahbani e Fairuz noi leggiamo un po' di iniziative in cui sarà presente Shad. Sarà sicuramente domenica a Napoli alle 17.30 al laboratorio occupato SCA a Calata Trinità Maggiore 15 a Piazza del Gesù, mentre il 22 pomeriggio sarà al centro sociale ex Snia Viscosa, per poi passare ad un tour nel nord Italia che sarà a Parma, a Milano e a Torino, di cui però daremo maggiori informazioni la prossima settimana. Noi vi salutiamo, vi ricordiamo che questa è Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi. Ringraziamo nuovamente Shad e noi ricordiamo che continua la nostra lotta per la libertà in Italia, nei castelli romani e anche in Palestina. بتسعى في الوطن من اجل دمك اخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمه تكون انسان اخي لا